in primo piano. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Come estás, Matteo Renzi? Come estás, il Premier? Buenos días, insomma, mica tanto. Oggi una rassegna stampa sulla nostra recessione tecnica, così si dice in gergo, grazie a Valerio Rocchetti in regia. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. In studio con noi una delle firme del nostro giornale, Isabella Bufacchi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che addirittura ci è venuta a spiegare proprio qui in studio che cosa succederà sui mercati dopo questi dati dell'Istat sul PIL, sul prodotto interno lordo, peggiori delle aspettative, uno meno 0,2%. E allora vediamo i titoli subito di tutti i giornali. Sole 24 ore, torna la recessione, il PIL giù dello 0,2% nel secondo trimestre, dato peggiore delle attese, meno 0,03% su base annua, ma a giugno c'è un rimbalzo della produzione, più 0,9%. Poi zero in condotta, il titolo del Manifesto, adesso recessione, la Padania, il Foglio invece tranquillo, Matteo, che pensi mi, il Cavaliere e Renzi si vedono per tre ore, Forza Italia brontola e mano molle il Lazzareno, quella è l'altra notizia della giornata, Libero, Renzi fa girare la ruota della sfortuna, SOS Italia appesi al patto, il giornale, parlano di Italicum e l'Italia affonda, recessione, il Fatto Quotidiano, ora a rischio sono i conti pubblici, il fisco si accorge che c'è la crisi, Italia oggi, PIL sotto zero, torna la recessione, giù le borse, allarme in Europa, Repubblica, è recessione, il PIL peggio del previsto, Corriere della Sera, insomma anche l'Avvenire, il quotidiano della CEI titola sulla recessione, insomma è una debacle. E sul Messaggero, iniziamo da qui, c'è l'intervista del Premier Matteo Renzi, non cambio linea, ora 5 riforme, non mi sento bocciato dal calo del PIL, lavorerò di più ma niente manovra, difficile un appoggio da Berlusconi sull'economia, Cottarelli, i tagli spettano alla politica. Su questo appoggio di Silvio Berlusconi sull'economia invece i giornali più di centrodestra, di orientamento di centrodestra come il Giornale e il Libro invece dicono proprio che il Cavaliere anche darà una mano sull'economia, ma quello lo vediamo più tardi. Quando arrivano questi dati, scrive Virma Cusenza, che intervista Matteo Renzi sul Messaggero, che stai aspettando da 10 giorni, è quasi una liberazione, dice Matteo Renzi dal suo studio di Palazzo Chigi. Il dato è negativo, certo, bene, vuol dire che noi lavoreremo di più, la grande chance è trasformare questo numero in occasione di accelerazione delle riforme. I collaboratori qui a Palazzo Chigi e i parlamentari mi dicono giustamente, Matteo, stiamo già correndo tanto. Il PIL cala dello 0,2%, dice Virman Cusenza. Il governo aveva previsto per quest'anno una crescita dello 0,8. Ci spiega come è stato possibile sbagliare le stime in modo tanto clamoroso. Tutti i previsori, risponde il Premier, hanno fatto stime superiori alla realtà, ma io non mi soffermerei sul dato, ho rischio di diventare come tutti quelli che di fronte a un risultato negativo cercano giustificazioni. Non sono molto preoccupato anche sugli investimenti stranieri, perché i soggetti stranieri stanno investendo molto in Italia e continueranno a farlo per non farci un piacere, ma perché è conveniente. Poi ovviamente questo dato della crescita evidentemente ha una ricaduta in termini di costruzione di bilancio e qui chiaramente si parla anche dei margini di flessibilità sull'Europa e sulla manovra aggiuntiva, che però il Premier come Padoan ieri sul Sole 24 Ore smentisce e appunto dice più o meno siamo lì, quindi non esiste un problema economico, parole di Matteo Renzi, e questo è il motivo per cui non c'è una manovra in vista. questa. Lo può garantire? Sì, siamo partiti che avevamo lo spread a 200 e da una situazione di PIL a meno 1,8. Quelli sì che erano dati negativi, dice Renzi. Ora siamo un PIL che ha lo meno 0,3%, mentre ci aspettavamo più o meno un più 0,5 per chiudere allo 0,8. E Isabella Bufacchi, che abbiamo qui in studio, sul nostro giornale Il Sole 24 Ore, scrive appunto uno scudo sul rischio Italia. Il tuo articolo, Isabella, inizia: lo spread tra BTP e Bund si è allargato ieri di 13 punti, da 158 a 171. E questo non soltanto per la pessima performance del PIL italiano, se 6 punti provengono dal rialzo del rendimento dei BTP, passati dal 2,75% al 2,81%. Insomma, è un problema che sta, quello di cui si parla appunto, è che questo spread, il differenziale, ricordiamo, tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, possa ricominciare a salire con gravi danni all'economia. È così, Isabella? Beh, ricordiamolo che lo spread viene chiamato come il termometro della nostra affidabilità, e quindi lo abbiamo visto tutti: quando è sceso abbiamo pensato che eravamo più affidabili, adesso che risale siamo meno affidabili. In realtà, secondo me, è un termometro che si è un po' rotto in questo periodo. Perché? Perché, come ha notato anche Renzi, lo spread era più alto, poi ha cominciato a scendere, ma non sono proprio convinta che si è sceso di recente, come anche il rialzo delle borse, perché l'Italia era un paese molto migliorato rispetto all'anno scorso. C'è stato, lo sappiamo, la Banca Centrale Europea sta tenendo i tassi molto bassi, li ha tagliati di recente, stiamo allo 0,15% il tasso di riferimento. I rendimenti sono scesi tantissimo, poi in tutto il mondo, quindi c'è effettivamente una caccia all'alto rendimento, il che significa che l'Italia, ma come la Grecia, il Portogallo, la Spagna, insomma tutta la periferia diciamo europea, rende di più dei paesi AAA come la Germania. Ecco, io citavo anche ho scritto nell'analisi che ieri stesso, per i problemi poi di Russia, Ucraina, della geopolitica, il rendimento dei Bund tedeschi è sceso a livelli minimi storici, all'1,1. Quindi quando ci sono rendimenti bassi, comunque i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i gestori di fondi patrimoniali, comunque devono andare a cercarsi un po' di rendimento. Lo stesso risparmiatore vuole mettere nel suo portafoglio qualcosa che rende di più, quindi si va anche sull'Italia. E allora effettivamente c'è stato un momento in cui anche gli investitori stranieri, ma tutti i mercati, hanno visto con l'arrivo di Renzi un cambiamento anche di passo, un cambiamento di clima, come per dire: beh, questa potrebbe essere effettivamente la volta buona che l'Italia fa quello che promette. Quindi anche in questo sì, c'è stato un po' di ribasso dello spread per un po' di fiducia in più sull'Italia. E poi però, ecco, purtroppo il dato del PIL ci ricorda invece che quando c'è più fiducia sull'Italia, quindi l'Italia ricomincia a crescere, ecco lì che arriva il dato negativo, arriva la mazzata. Allora ricordiamo il 349-238-6666, il numero per i vostri SMS, e continuiamo a leggere dei brani di questa intervista di Matteo Renzi al Messaggero, che è un po' la notizia dei giornali di questa mattina. E dice: sta minimizzando Presidente del Consiglio su questo dato negativo del PIL, dice: non sarò certo io quello che minimizza, dal momento che mi sta a cuore che passi il messaggio dell'accelerazione delle riforme. Il punto vero oggi sarebbe: vogliamo aprire una discussione intorno all'Europa? L'Italia la può fare soltanto se si presenta al tavolo europeo dicendo: signori, noi il cantiere sulla giustizia civile l'abbiamo aperto, sul fisco idem, sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione pure, abbiamo cominciato a spendere bene i fondi europei. Dice: ma insomma è un'operazione di fiducia questo? No, dice Renzi, non un'operazione di fiducia, ma un'operazione di tenacia, è una cosa ben diversa. Se per il bonus però degli 80 euro il problema è forse che non si riuscirà ad estenderlo, ma anche, dice l'intervistatore, ricordiamo Virman Cusenza, che magari magari il governo non riuscirà a mantenerlo e Renzi dice questo non è un problema, abbiamo sempre detto che lo conserviamo, anzi. Ecco, sempre sul Sole 24 Ore c'è anche l'editoriale del nostro direttore Roberto Napoletano che inizia con una domanda: ma Renzi le cose le fa o non le fa? Questa è la domanda oggi, perché dopo il 40,8% nell'urna, un risultato politico storico che ha dato forza alla speranza, come dicevi tu anche Isabella, è arrivato il meno 0,2% del PIL, che segue il meno 0,1% del trimestre precedente, fa ripiombare l'Italia in una recessione con una stima annua di meno 0,3%. Secondo Napoletano servono investimenti interni ed europei, pubblici e privati, quelli veri, quelli possibili, non la farsa dei 43 miliardi annunciati all'Expo parlando dello sblocca Italia. Serve un disegno di sviluppo condiviso che metta al centro l'investimento e Renzi deve dimostrare di averlo e di essere capace di realizzarlo. Mille giorni bene, ma per fare cosa? Chi ci osserva da fuori vuole capire se l'Italia è in grado di gestire situazioni difficili. La risposta non può essere un disegno organico di azioni che riguardano l'economia. Non può non essere, scusate, un disegno organico di azioni che riguardano l'economia e vengono comunicate e attuate in tempi certi. Ecco Isabella, questi mille giorni che io continuo a ripetere sembrano un po' mille giorni di te e di me, come la famosa canzone, che cosa devono portare per far sì che poi, bene o male, come dice il nostro direttore, l'Italia veramente sia credibile anche a livello di mercati, che non ci siano queste grosse oscillazioni, che lo spread continui pian piano a stabilizzarsi? Sì, ecco, proprio lo spread, vedevo ieri stesso, pur con questo dato negativo sul PIL, che alcune banche estere continuavano a puntare sullo spread che si stringe verso la fine dell'anno e quindi non hanno dato tutta questa importanza a una recessione tecnica, perché l'importante è che l'Italia non chiuda quest'anno in recessione. Ecco, una domanda che ci fa Marco, scusa che ti interrompo, dice: che cosa c'è di tecnico nella recessione? Perché poi questa cosa della recessione tecnica si è prestata molte battute ieri, che perché si dice recessione tecnica? Ma infatti il termine tecnico è che occorrono due trimestri consecutivi di PIL negativo e quindi tecnicamente un meno e un altro meno trimestre dopo trimestre ti porta alla recessione tecnica. Però ecco, è interessante vedere che ancora ieri alcune banche hanno scritto un rapporto ai loro investitori dicendo: compra i BTP perché lo spread scenderà verso la fine dell'anno. Ora in questo secondo me c'è di nuovo la caccia all'alto rendimento, a prescindere poi dal paese, però secondo me allo stesso tempo c'è anche la prospettiva che l'Italia comunque chiuderà l'anno con un più, anche se sarà più 0,1. Allora tu mi chiedevi che cosa bisogna fare in questi mille giorni, direi per i mercati, ma secondo me i mercati e i cittadini sono oramai allo stesso posto, cioè tutti si aspettano che qualcosa accada. Ecco, secondo me, proprio perché c'è un fattore di investimenti, come dice anche il nostro direttore del Sole 24 Ore, per fare investimenti occorre la fiducia. Per spendere gli 80 euro occorre avere fiducia nel proprio posto di lavoro, nel posto di lavoro dei propri figli, e questa fiducia si crea con delle azioni concrete. Adesso poi, al di là di quali saranno, non si cambia linea, il cantiere di cui parla Renzi, il nostro cantiere è aperto direi da 10 anni su queste riforme, quindi parlare di cantiere adesso non funziona. Quindi quello che vedono i mercati e i cittadini è che si parla di riforme e poi non si fanno, oppure si fanno, come quella delle pensioni, che è una delle riforme basilari per la sostenibilità dei nostri conti pubblici, poi magari si ricominciano anche un po' a smantellare. Il debito PIL si dice che deve calare e guarda caso ogni anno andiamo a vedere il numerino e sale. E arriverà al 140%. 135%. Alla fine dell'anno può darsi. Sì, no? Perché chiaramente cioè, poi avendo il PIL che scende sale anche il debito PIL. Le privatizzazioni e le dismissioni immobiliari si dice che si fanno. Ecco, infatti il nostro nostro direttore proprio per collegarci a quello che è la linea del Sole 24 Ore, ma insomma di quello che chiedono i mercati, l'urgenza dell'economia, e guai se i mercati dovessero convincere che chi ci governa la sottovaluta, il tema del debito pubblico e delle privatizzazioni si affronti con pragmatismo. Insomma, questo debito pubblico, queste privatizzazioni che dovrebbero servire a far calare il debito, ricordiamo, si vendono gli immobili magari di prestigio di Stato per far sì che questo debito cali, no? Che spieghiamolo in termini semplici, perché sennò non si capisce. Il deficit è quello dell'anno in corso, il debito è quello che ci portiamo appresso da tutte le stagioni. Perché? Perché anche Renzi sulle privatizzazioni in questa intervista è un pochino vago. Ecco, perché non si procede? Infatti dice: chi gli impedisce di fare parallelamente le due cose, chiede Cusenza sul Messaggero. Non mette mano al debito per non scontentare alcune categorie che poi servono per vincere le elezioni? Io credo di trovarmi in una condizione per cui mi si può accusare di tutto meno di captatio benevolenza verso qualche categoria. Tra 4 giorni o 4 anni posso anche andare a casa. Quello che non posso fare è fallire, vabbè, l'occasione per cambiare l'Italia. Però poi alla fine su questo piano di privatizzazioni dice: a mio giudizio questo non è il momento di svendere, dice Renzi. Avanti con le privatizzazioni, l'ha spiegato molto bene Padoan oggi, ma non con l'ansia di chi ha bisogno di realizzare. Sì, iniziamo facendo un discorso serio delle municipalizzate, dalle multi-utility, perché alcune funzionano, altre no. Partiamo da lì, dalle cose difficili, iniziamo a disboscare la giungla di partecipate, di poltrone, di CDA, e diciamo ai sindaci: noi vi diamo gli incentivi, ma voi mettete insieme le aziende. Se non lo fate, vi chiudiamo i rubinetti. Mi interessa che il fondo strategico sia a disposizione di questa struttura come cassa depositi e prestiti per intervenire laddove le aziende possono essere accorpate. Penso a tutto il tema del trasporto pubblico locale, ai rifiuti. Insomma, su queste privatizzazioni è piuttosto vago. Ecco, invece, secondo te che cosa bisogna fare? E questa è l'unica ricetta per far scendere il PIL? Beh, diciamo che... Scusa, per far scendere il debito, scusate la gaffa. Beh, si parla sempre di debito PIL, alla fine sono ormai un'unica cosa. Beh, diciamo che secondo me le privatizzazioni possono essere un segnale quando lo Stato comunque esce da alcuni settori. Siccome si parla molto di troppa burocrazia, troppi vincoli, in fondo privatizzare non vuol dire soltanto vendere, ma anche ridurre il peso dello Stato in alcuni settori, quindi liberalizzare. E quindi questo potrebbe essere invece, ecco, favorevole per il PIL da quel punto di vista. Mentre se noi guardiamo a una famiglia molto indebitata e la banca è in tensione perché è una famiglia che magari il padre di famiglia rischia di perdere il posto di lavoro e hanno un mutuo da pagare, allora è chiaro che la banca come creditore, ecco, se si vende qualche gioiello di famiglia per ripagare un pochino il debito, è un segnale positivo. Però quello che preoccupa di più una banca quando c'è un debitore, una famiglia che deve pagare troppi debiti, è quello che si fanno delle spese correnti che non bisognerebbe fare, come per esempio andare dal parrucchiere troppo spesso. Quindi alla fine è vero che l'Italia può privatizzare, ma quello che si guarderà di più secondo me è la spesa corrente, come quella di andare dal parrucchiere troppo spesso. Quindi ok, puoi anche vendere il gioiello di famiglia per dare un segnale, però devi spendere di meno se hai meno entrate. Quindi insomma questa è la cosa da fare. Noi dobbiamo dare la linea alla regia per un attimo e ci ritroviamo subito dopo con Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore. In primo piano. E un altro tema all'ordine del giorno oggi sui giornali, ovviamente, è quello della riforma della Costituzione, che verrà votata, ricordiamo, al Senato. Dovrebbe avere il primo sì, no, perché qui si con i toni trionfalistici diciamo si poi si rischia di sentite lo scorrimento dei giornali, come vi ho detto, noi siamo un po' old style, usiamo il cartaceo. E allora dobbiamo assolutamente dire che ci sarà un primo sì, dobbiamo riconoscere che questa riforma praticamente che dovrebbe essere approvata oggi o forse domani dal Senato dà il via a quello che sono le riforme istituzionali con un Senato non elettivo, una fine del bicameralismo perfetto che avverrà tra un anno dopo varie letture, perché essendo un disegno di legge costituzionale deve avere un doppio passaggio sia alla Camera che al Senato. Quanto questa riforma potrebbe poi dare un po' di ottimismo anche ai mercati e a livello internazionale, Isabella? Io approfitto di te per guardarla da un altro punto di vista, perché poi sulla riforma del Senato se ne è visto e abbiamo detto di tutto in questi giorni, però quanto questo può essere poi un punto a favore di Matteo Renzi e anche un punto un po' di rivalsa sui mercati per l'Italia? Beh, torniamo appunto all'attesa che qualcosa in Italia si faccia alla fine, quindi secondo me comunque il segnale è positivo, perché i mercati hanno dato a Renzi il beneficio del dubbio che lui possa veramente fare qualcosa, quindi è vero che i mercati preferirebbero le famose riforme strutturali per la crescita, ricordiamolo, che sono quelle per il lavoro, la riforma del mercato del lavoro, le semplificazioni, bisogna abbassare le tasse perché sono troppo alte, quindi partire dalle riforme istituzionali o costituzionali forse è il giro più lungo, chiamiamolo così, però i mercati per esempio sono contenti se in Italia il percorso legislativo si accorcia. Cioè, io parlo spesso con gli investitori internazionali e lo vorrei ricordare, l'Italia emette ogni anno intorno ai 450 miliardi di titoli di Stato che devono essere sottoscritti da investitori italiani e investitori stranieri. Siamo il primo emittente di titoli di debito in Europa, quindi comunque a noi occorre, noi abbiamo bisogno proprio di investitori che comprano il nostro debito pubblico con la tranquillità che il loro investimento andrà a buon fine e i titoli verranno rimborsati. Quindi il fatto che l'Italia passi da questo bicameralismo perfetto che sui mercati viene detto a tutti siamo l'unico paese quasi al mondo che ha questi iter così lunghi, ecco, a me questi investitori quando parlano con me mi dicono: ma io non capisco, cioè non capisco cosa succede in Italia, cosa sono tutti questi emendamenti, migliaia di emendamenti. Il canguro l'ha un po' sfoltiti, no? Abbiamo visto che il canguro a un certo punto ha preso e sfoltito un po' di emendamenti, per fortuna, perché infatti quello che poi se si va oltre il bicameralismo perfetto magari si avranno anche meno decreti, perché poi un contrappeso purtroppo per snellire i lavori parlamentari è quello di una decretazione d'urgenza, anche quando questa urgenza non c'è, per far sì che le riforme poi arrivino. Ecco, arriva il referendum propositivo, il titolo dell'articolo di Francesco Bei su Repubblica. Senato dai relatori la proposta di modifica costituzionale, il governo va sotto sulle minoranze linguistiche, cambiano le regole per eleggere il capo dello Stato, abolito le province e il CNEL, incerta l'approvazione oggi, magari ci sarà domani, però ricordiamo che a questa riforma Renzi attribuisce infatti anche un valore fondamentale per il rilancio dell'economia e la lega alla durata dell'esecutivo, accogliendo ieri mattina Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, Renzi lo ha salutato con una battuta carica di ottimismo sull'iter delle riforme. Starò qui altri 3 anni fino al 2018. E appunto qui c'è un piccolo editoriale del Foglio anche su questo incontro, su questo patto del Nazareno, ritoccato. Governare dall'opposizione, stare all'opposizione ma governando. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi ha Palazzo Chigi dà una pacca sulle spalle a Matteo Renzi e gli dice: tranquillo, ci siamo qui noi, il suo partito Forza Italia diventa un travolgente festival barocco della parola, impastato com'è di protesta e di assenso, di urletti, di singhiozzi, di gioia e di dolore. E c'è dunque Renato Brunetta che sparge polvere urticante con il lampo soddisfatto: caro Matteo, adesso con i gufi come la mettiamo? E c'è Maurizio Gasparri che bolle tumultuosamente come una caldaia: non possiamo non rilevare l'inadeguatezza di Renzi. anzi le imprese sono al palo, i consumi fermi, gli 80 euro un boomerang. Allora qui c'è questo giallo, se durante questo incontro a Palazzo Chigi in cui loro si vedevano alle 11 l'Istat ha dato, prima alle 10 ha dato i dati sulla promozione, sulla produzione, che non erano negativi, c'era un segno più, e poi alle 11 sono purtroppo usciti quelli del PIL che si aspettavano, quindi evidentemente i due hanno parlato anche di questo. Sicuramente. E alcuni giornali, tipo appunto il giornale Libero, dicono che invece il Cavaliere è pronto a dare anche una mano dal punto di vista dell'economia, anche se Matteo Renzi sul Messaggero dice che non è vero, che non c'è questo patto anche sull'economia. Quanto è importante invece in questo momento per un'Italia avere una sorta di grosse coalizione all'italiana? All'italiana o alla tedesca è comunque importantissimo. Questo è uno dei punti fondamentali, e di nuovo parlo dei mercati, ma credo anche dei cittadini, cioè quello di vedere un paese politicamente allo stallo. Se ci ricordiamo, l'ultima volta che lo spread si è allargato è stato quando noi, dopo le elezioni, comunque diamo l'idea che un governo non abbia una maggioranza forte per poter fare delle riforme, fare le leggi, anche velocizzare. Quindi lo stallo politico è veramente forse uno dei rischi più temuti dei mercati, perché lì significa che si ferma tutto, e magari è temuto anche dai cittadini, perché gli stessi cittadini quegli 80 euro li vogliono investire, vogliono avere fiducia nel proprio paese. Quindi quando poi ci sono questi incontri, secondo me il segnale è che Renzi non è arrivato a Palazzo Chigi con le elezioni, quindi anche per i mercati o anche per i cittadini, lui deve dare comunque continuamente dei segnali che lui è forte. Sta dialogando. Sì, ecco, sì, serve questo. Allora, leggiamo, c'è l'articolo, il fondo di Nicola Porro sul giornale, che dice: il PIL non cresce perché a quattro sindacalisti si permette di bloccare i bagagli dell'Alitalia, a un violinista e a qualche suo socio si consente di fermare le rappresentazioni dell'Opera di Roma, e alla minoranza dei metalmeccanici è stato consentito di mettere in discussione in tribunale le decisioni di Marchionne sulla Fiat. Chiaro, siamo un po' duri antisindacali, e chi se ne frega di questo senso comune. SOS Italia appesi al patto, dice il giornale, e torna l'incubo borse. Ecco, c'è stata poi una frenata anche della Fiat, però dovuta da altre cose. Però questa frenata della Fiat ieri, questi dati negativi del PIL, certo, insomma, la giornata borsistica a Piazza Affari non è stata delle migliori. No, è vero, però io vorrei ricordare, innanzitutto la borsa era salita, come erano salite le borse anche un po' in tutto il mondo, e ricordiamolo sempre per questa grande liquidità che c'è stata sui mercati, e una correzione era attesa, e la Russia, questo bisogna sempre ricordarlo, cioè ricordiamoci, l'Italia non è da sola, è in un contesto, cioè quando si parla del calo delle esportazioni che incidono sul nostro PIL, la parola esportazione ci deve far ricordare che l'Italia risente di tutto quello che avviene intorno a lei, quindi il problema della Russia, insomma, era attesa un po' una correzione, ricordiamolo, anche negli Stati Uniti hanno avuto i tassi bassi, ma questi tassi ricominceranno a salire, i mercati sono un po' in allarme, c'è importante la Banca Centrale Europea, Draghi, che riparlerà oggi, e ci sono attese che anche la Banca Centrale Europea possa fare qualcosa ancora di più per aiutare l'economia. Quindi le borse in agosto sono sempre un po' tese, e dall'altro lato però vorrei anche ricordare che la borsa italiana è una borsa anche un po' particolare, secondo me, perché non ha moltissimi titoli in borsa, cioè la nostra capitalizzazione di borsa rispetto al PIL è piccola, quindi basta poco a muovere la borsa italiana, ci sono pochi grandi titoli, e per esempio ieri hanno inciso molto le banche sulla borsa. Perché? Perché è quasi assurdo, cioè noi abbiamo avuto bisogno delle banche italiane quando i nostri titoli di Stato venivano venduti a palate nel 2011 dagli stranieri, le banche italiane si sono rimboccate le maniche e se li sono comprati. Adesso si dice però hanno troppi titoli, e quando lo spread sale allora i bilanci delle banche tremano, allora in borsa si vendono i titoli bancari. In realtà le banche italiane hanno anche fatto molti soldi tenendo dei titoli che hanno comprato a dei prezzi bassi, e adesso e poi sono il decreto saliti. Imu Banca Italia un po' l'aiuta, sì, come dicono i grillini. anni. Silvio, pronto al patto sull'economia, un articolo di Libero di Salvatore Dama. Matteo, stai attento a non fare la fine che ho fatto io nell'autunno del 2011. Per un attimo le mani del Presidente del Consiglio scompaiono dalla scrivania. Questi sono tutti in retroscena. Nel 2011, quando Silvio Berlusconi sale al Quirinale per dimettersi, lo spread quanto era, Isabella? Beh, sì, quelli sono che stati... cosa toccò? 500 punti? 575, ma soprattutto al di là dello spread erano i titoli di Stato sul mercato secondario in asta. Mi ricordo un'asta tremenda di BTP a 3 anni, l'ho citata anche nella mia analisi oggi, al 7,89%, e quindi erano giorni tremendi. Non siamo assolutamente in quella situazione perché adesso siamo, va bene, adesso siamo a 170, è molto basso. C'è chi pensa che arriveremo a 200, c'è chi pensa che risaliremo, cioè arriveremo a 100 e oppure realisticamente torneremo a 200. Quanto sì. pensi sia veramente la differenza, a parte i titoli di Stato, sì. se tu dovessi dare appunto uno spread tra l'Italia e la Germania, tra il nostro tenore di vita, tra la nostra economia e loro, sta sui 200 come diceva Monti un tempo, oppure sta sui 167 come oggi? Beh, io vorrei fare una provocazione per rispondere alla tua domanda. Allora, la Germania ha un debito pubblico più alto del nostro, vedevo proprio ieri il dato, noi parliamo di 2000, noi 100 miliardi, loro hanno 2150, però in percentuale però rispetto al PIL sono sull'80%, che è alto, perché è ricordiamolo, altino, Maastricht è 60, però il loro trend è a ribasso, cioè 80 stanno a 77, sono partiti da, quindi a 85 man mano stanno scendendo, mentre noi saliamo, quindi è sempre una questione di fiducia. Però la mia provocazione è questa, è che quando l'eurozona funzionerà veramente, quando noi avremo un vero euro, un'unica moneta, ma un'unica politica, un unico titolo di Stato europeo, lo spread non ci dovrà essere. Non ci dovrà essere. No. Diamo la linea alla regia, perché poi ho un'altra provocazione per te subito dopo. In primo piano. E noi rientriamo in primo piano, intanto leggiamo gli sms. Renzi è un fallito, incapace, deve andare via, speriamo arrivi la troica a salvarci, è l'unico modo per uscire dalla crisi. Gesù, riportaci la lira e crocifiggi i burocrati europei, molto divertente questo, speriamo arrivi la troica a salvarci, è l'unico modo per uscire dalla crisi, dice Andrea. Perché non diminuire il numero dei deputati, riforma del lavoro, ma c'è il lavoro, chiede Marco. Insomma, noi poi diciamo pure che c'è in edicola anche Panorama con Matteo Renzi, ora non ridere Isabella perché lo vedi, con i denti da Dracula, il prelievo, e poi c'è un articolo molto divertente con i gufi, tra cui c'è sia il gufo Indomino, Renato Brunetta, Beppe Grillo, Diego Della Valle, i gufi professori, Luca Ricolfi, Francesco Giovanni, Stefano Rodotà, i gufi Brontoloni, Stefano Messina, Eugenio Scalfaro, Piero Ostellino. Una domanda per te Isabella, abbiamo parlato di mercati, abbiamo parlato di banche, ma dopo che ha fatto il governatore della BCE, tu come lo vedi Mario Draghi che magari prende il posto e va al Quirinale, oppure sarebbe considerato dai cittadini troppo distanti da loro? No, direi che Draghi è stato risolutivo in Europa alla Banca Centrale Europea, e si aspetta ancora molto da Draghi per comprare quel tempo con i tassi bassi, il tempo che serve alla politica per fare il suo lavoro. Dopodiché, visto che lui è stato con questo suo famoso whatever it takes, cioè posso fare qualsiasi cosa pur di salvare l'euro, magari come Presidente della Repubblica lui farà qualsiasi cosa per salvare il lavoro in Italia. Per salvare l'Italia, sì. Diciamo. Io lo vedo male Matteo Renzi che sale al Quirinale già adesso col decreto della pubblica amministrazione. C'è stato qualche problema con i tecnici, ma se c'è Draghi che gli controlla tutti i conti, beh, forse potrebbe essere vantaggioso per noi. Allora, andiamo alle altre notizie sugli esteri. La guerra in Siria, le ragazze italiane rapite 7 giorni fa, dedicano a questo argomento tutti i giornali. Noi leggiamo quello lì del Corriere della Sera: portate via da una banda di criminali comuni che potrebbero poi cederlo a un gruppo più organizzato, e questo è il timore forte forte di chi sta cercando di aprire i canali per negoziare il rilascio di Vanessa Marzullo, 21 anni di Brembate, e Greta Ramelli, 20 anni di Gavirate, le due cooperanti rapite in Siria nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto. Le due ragazze sono state caricate su un furgone da una decina di uomini armati che hanno fatto irruzioni verso le 4 del mattino nell'appartamento situato vicino a Idlib, nella zona di Aleppo, comunque, dove erano arrivate con due guide appena tre giorni prima. Speriamo, insomma, che Greta e Vanessa, due amiche, quel patto per curare i bambini. La giovane varesina era già stata a Calcutta, nello Zambia. La collega bergamasca studia la cooperazione internazionale. 500 donne fatte schiave dal califfo dello Stato Islamico, scontri a Mosul e fra ISIS e truppe di Baghdad, uccisi 120 miliziani, questo qui sulla stampa, un pezzo di Francesco Semprini, rapite per farne le schiave del califfo, il nuovo capitolo del dramma che accompagna le minoranze etnico-religiose nel nord dell'Iraq, fagocitato dall'offensiva dello Stato Islamico, dopo la cacciata dei turcomani e la persecuzione dei cristiani, e questa volta il turno degli Yazidi, popolazione di origini curdi fedele ad un'antica religione legata allo zoroastrismo. Sono circa 500.000, insomma, c'è questa controffensiva. Isabella, a me come donna preoccupa molto questa islamizzazione, soprattutto abbiamo sentito anche eccidi di cristiani dal califfo, insomma, è in atto proprio uno scontro tra due fazioni nel mondo islamico, dove c'è una radicalizzazione verso la Sharia che ci preoccupa. Sì, beh, io sui mercati finanziari seguo sempre questa parola, la globalizzazione, ma in fondo quello che serve oltre alla globalizzazione dei mercati e dell'economia e della finanza è anche quello dei valori, dei diritti umani, dell'uguaglianza, del rispetto, e lì secondo me c'è ancora molto di più da fare rispetto a quello che vedo sui mercati. Allora, dopo 30 anni, Desaparecidos, andiamo in Argentina, poi una domanda chiaramente sul default dell'Argentina, però questa volta per parlare di una bellissima notizia, prendiamo spunto dall'articolo di Omero Chai su Repubblica, ma ne parlano tutti i giornali. Devo darle una notizia che aspetta da 36 anni, abbiamo ritrovato Guido. Quando il giudice Maria Servini de Cubria ha pronunciato queste parole alle 2 del pomeriggio di martedì, Estela De Carlotto, la presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo, ha iniziato a gridare e poi a piangere dall'incredulità. Non potevo crederci, il giudice l'aveva chiamata mezz'ora prima, ma lei non aveva sospettato di nulla. Un incontro come tanti nello studio del magistrato, la vicenda era stata tenuta segreta soprattutto per non illuderle. Tante altre volte in questi anni si era accesa una speranza che poi l'esame del DNA aveva cancellato. Quindi dopo 36 anni ha potuto finalmente incontrare il ragazzo strappato alla figlia uccisa dal regime in Argentina. Il Papa si commuove, messaggi di auguri da Hillary Clinton, Messi e Maradona. Insomma, il default dell'Argentina però c'è, malgrado questa bellissima notizia della nonna di Plaza de Mayo. Ricordiamo, durante la dittatura venivano rapiti i bambini di quelli che erano i dissidenti e che poi venivano uccisi e venivano dati ai colonnelli o agli alti gradi dell'esercito. Come però siccome parliamo con te di mercati, questo nuovo default dell'Argentina preoccupa? Ma diciamo che i mercati sono abituati ai default dei paesi emergenti, quindi non mi ricordo quante volte l'Argentina è andata in default. Il problema è proprio questo del debito e della ristrutturazione, e magari colgo anche l'occasione per questo messaggio. Siccome si parla del problema del debito italiano e ogni tanto nel dibattito c'è chi dice ma insomma alla fine si può ristrutturare il debito, pagare meno interessi, ecco, questo effettivamente non si può fare. L'Argentina è proprio uno di questi esempi, perché un debitore deve pagare sempre puntualmente e integralmente i propri debiti. Basta che non lo fa una volta, la fiducia è persa per sempre, e infatti chi va in default una volta nei paesi emergenti tende a riandarci, perché poi alla fine quella fiducia è persa, l'Argentina non è potuta più tornare sui mercati. Quindi un debitore che poi alla fine non tiene fede ai suoi impegni con i creditori perde la fiducia per sempre. Quindi attenzione a questa parola, alle volte è abusata, non si ristruttura il debito, e l'Argentina è una lezione per noi. Insomma, attenzione, poi c'è una notizia di cronaca su tutti i giornali: gestire il panico, Schettino in cattedra, Roma bufera sulla Sapienza, dove il comandante è stato invitato a tenere una lezione nell'ambito di un seminario, il ministro Giannini sconcertante, e il magnifico rettore deferisce il docente che ha organizzato l'iniziativa. Segnaliamo sul Libero la marcia su Roma dei turisti straccioni, bagni nelle fontane, picnic sui movimenti e furti di reperti antichi, la capitale prigioniera dei viaggiatori vandali, e addirittura pediluvio e picnic in centro. Ci sono varie fotografie dove vediamo il malcostume. Vogliamo chiudere come al solito con la Gazzetta dello Sport, non per parlare di calcio, perché tanto poi ci sarà quando tornerà Alessandro Milan che parlerà di Juve, di Roma, di Milan, ma per segnalare invece questo articolo a pagina 29, Sciumi, un altro dramma, furto in cartella, sospettato si uccide il dipendente dell'elisoccorso svizzero arrestato dalla polizia, si è impeccato in cella a Zurigo. La fuga di Kagemusha San è finita tragicamente in una cella della centrale di polizia di Zurigo, impiccato alle sbarre della sua prigione. Lo hanno trovato così ieri mattina all'ora di colazione gli agenti svizzeri che solo poche ore prima lo avevano arrestato in relazione al furto, al tentativo di vendita della cartella medica di Michael Schumacher. Da settimane gli inquirenti svizzeri stavano indagando in relazione al furto del file contenente le condizioni cliniche del 7 volte campione del mondo di Formula 1, ferito gravemente alla testa il 29 dicembre contro una roccia mentre assieme al figlio Mick e alcuni amici era a sciare sulle nevi francesi di Méribel. Senti, una cosa ti voglio chiedere, tu che ti occupi di borse, di mercati, di strategie, sì, quanto pesa il calcio? Parliamone dal punto di vista non di Vecchio, della FIGC, del calciomercato, degli acquisti, delle partite, ma quanto pesa il mercato a livello di finanza? Ma io ho notato che i mercati si sono divertiti quando ci sono stati i campionati mondiali a fare anche le loro previsioni abbinando le squadre di calcio anche all'andamento economico dei paesi. Cioè alla fine diciamo i mercati vengono sempre visti come un'entità un po' strana, ma anche direi in qualche modo negativa, cioè i mercati che speculano, cioè in realtà i mercati poi sono fatti da uomini e donne e anche loro seguono le partite di calcio e scommettono su un risultato, e quindi secondo me alla fine alla tua domanda rispondo proprio ricordando che dietro gli schermi, gli acquisti e vendite di titoli e tutto, questi mercati sono uomini e donne, e i mercati sono molto emotivi. Allora diciamo, suggeriamo a Marchionne, dice Juve sempre al max, insomma suggeriamo a Marchionne di prendere la sponda del calcio, visto che il titolo Fiat non è andato bene. Ringrazio Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, il nostro giornale, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, io vi do appuntamento domani, subito dopo il GR, poi Irene Zerbini.